sei un giornalista di merda, perché tu stimoli andare al cesso. Quando sento te mi viene voglia di cagare, perché tu hai una capacità di fare giornalismo pari a zero, ok? La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Tra una dura femminista ed un morbido maschista, questo amore è una svista. Bruci in piazza un reggipetto, mentre forse per dispetto te lo metti pure a letto. Sei ancora a casa? E poi sarei curioso di capire il fatto che tu... Vengato, che ormai è tutto finito. Piacere. Spieghi, voglio dimostrarti che voi Giuseppe, siete... Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene. Siete morti. Lo sai, Parenzo, lo dico con grandissimo rispetto istituzionale, grandissimo rispetto istituzionale, no? Lo sai che il presidente della Camera mi ha detto veramente con tranquillità, però in un modo che la gente che è in questo momento al volante, che è sul taxi, che è sugli autobus, che è sul grande raccordo anulare, sulla tangenziale di Milano, nelle piccole e grandi città italiane, in un modo che tutti possono capire. Il presidente della Camera mi ha rotto i coglioni. Ecco. No, ma lo devo dire, non sarà rispetto, come dire, rispetto per le autorità politiche, giudiziarie, penali, civili, militari, mi ha rotto i coglioni. Ora va benissimo che uno sta lì a Montecitorio e non ha un cazzo da fare, no, perché non uno sta il vilipendio per la terza, no, ma anche se ci fosse me ne frego. Allora, io lo capisco, uno sta a Montecitorio, si annoia, sta lì, che faccio, che non faccio, cosa dichiaro, cosa non dichiaro, devo presiedere la Camera, una rottura di balle pazzesca, devi stare lì a fare le chiamate, a fare il rimprovero a quello, il rimprovero a quell'altro, e le cerimonie, i nastri, eccetera, e dunque la cosa ti spinge a fare dichiarazioni, interventi su tutto. Senti questa cosa qui contro la pubblicità, senti. Bruci in piazza. Non può essere concepito normale uno spot in cui i bambini e il papà sono tutti seduti e la mamma serve a tavola. Guardate, merita una riflessione questo. Che è un piacere. Merita una riflessione. Ora no. Ditemi voi, ora adesso fermi tutti, non ditemi non voi, ditemi che è stato bravo. Ditemi voi. Sapete quelle meravigliose pubblicità della Barilla? Io lo dico, tanto me ne fotto, la Barilla o le altre, no? In cui c'è la moglie, diciamo, la compagna, la moglie, l'amante, non so che cos'è, che porta a tavola la colazione, serve la pasta con i bambini. Beh, e con il padre, diciamo, con il capo famiglia, come si diceva un tempo, la cosa seduto, orgogliosamente seduto che non fa un cazzo, bravo, esatto, sai quelle pubblicità lì, esatto. Ti è mai venuto in mente una riflessione, a te che sei una persona normale, ti è mai venuto in mente una riflessione sul ruolo della donna che serve a tavola? A me faceva girare i coglioni immensamente il mulino che girava in quella pubblicità, solo il mulino, perché non ho mai visto una casa con un mulino e non ho mai visto la gente alla mattina così tranquilla. La gente alla mattina è incazzata perché non era al lavoro, e invece c'è tutta questa serenità, questa tranquillità, ecco, quello mi rompeva i coglioni, solo quello. Il mulino che girava e tutti che sorridevano. Alla mattina non sorride nessuno, perché uno si sveglia che ha l'alito pesto, ha i capelli sporchi, si deve lavare, puzza e non ha voglia di andare a lavorare. Non è tutto bello. No, beh, hai ragione, guarda, devo dirti che iniziamo molto bene, perché ti do ragione su tutta la linea. Anch'io vedo, l'unica cosa che mi è venuta in mente è effettivamente queste scenette idilliache, no? Di una pace pazzesca. Non succede da nessuna parte. Mai. Così c'è la gente che si incazza, bambini che urlano. Invece la Boldrini, i denti gialli ce l'avrai tu, io non ce l'ho gialli i denti, abbi pazienza. L'alito che puzza. Vabbè, questo a casa tua succede. Comunque lasciamo perdere, no. Questo. Aspetta, ma dico, a voi è mai venuta in mente una riflessione sul fatto che la donna serve la colazione o il pranzo? Ma di che stiamo parlando? Ecco, appunto, di cosa stiamo parlando, amica Boldrini, di che parliamo? Perché perdi tempo a pensare a queste puttanate, alle pubblicità? Fatti gli affari tuoi, no? E andiamo. E dai. Dai. per divertirmi. Ma c'è di peggio, c'è di peggio, c'è di peggio. La grande preoccupazione. C'è di peggio, non mi far ridere subito, dai. C'è di peggio, la grande preoccupazione dell'Italia, secondo il presidente della Camera, è come viene chiamata lei. Presidente della Camera, gli dà fastidio il fatto che si chiami ministro, invece dovrebbe essere chiamata ministra. I grandi problemi della vita. Aspetta, lo sapevo che qui casca l'asino col politicamente corretto, Parenzo. Qui casca l'asino. Senti, senti. Qui nel logo pendolo. Richiedere che il linguaggio sappia adattarsi all'evoluzione del costume. Il linguaggio dovrebbe saperlo fare. E l'informazione dovrebbe essere apripista in questo. Sì. Allora, se una giudice... Se una giudice? Se una giudice chiede di essere chiamata la giudice... La giudice? Se una ministra chiede, sì, di essere chiamata la ministra... Allora? Se una presidente della Camera, ecco, chiede di essere chiamata la presidente... Sì. Ecco. Ecco. Perché? Perché? Lo facciamo. Perché? Perché è per lo affermare facciamo? Che la vita ha più di un genere. Vedete? Ma no! Ha più di un genere. Ma che cosa bizzarra, che cosa non strana. È un esercizio ozioso. La vita ha più di un genere. La vita ha più di un genere. Ma la gente che applaude. Non c'è un'esclusiva maschile per certi lavori. Ma chi è che applaude lì? Non c'è più una normalità maschile della quale... Ma tu hai capito cos'è? Allora, ci sono più generi. Ma chi che applaude? Ma qui, non lo so, non lo so che diavolo di convegni sono. La vita ha più di un genere. Ma perché non va a lavorare? Ma perché i convegni, chi è che applaude? Ma io, infatti, i convegni mi fanno impazzire. Ma no, ma è questo, ma la mattina, perché c'è un convegno la mattina alle 11. Ma chi è che va la mattina alle 11? Quelli che non hanno un cazzo da fare. Io negli altri paesi, io credo che i politici, cioè, non vanno a fare i convegni alle 11. E la gente, non ci sono 200 persone, perché la gente alle 11 lavora! Lavora! Cazzo! Dai! Vabbè, la Boldrini dopo, già abbiamo parlato troppo, la Boldrini non ne posso più. Senti, senti Sortino Cicchitto, ridiamo un po'. Sortino Cicchitto, se no iniziamo troppo, iniziamo a sudare subito. Ah, Sortino, ottimo. Sortino Cicchitto, pulito. Senti Sortino Cicchitto sulla P2, ha ragione Cicchitto in questo caso, devo dire. È ritornato ai bei tempi. Sì, ma io sono... La mia gioventù è la P2, pietra. Anche prima, insomma. No, sono... Lei è un piccolo provocatore e anche un po' cretino. Grazie. Se mi consente. Lei è cretino. No, lei è un piccolo provocatore e anche cretino. Questo è buono. Quando lo provochi così sulla P2, su Saviano, è spettacolare, Cicchitto. Beh, combatte sempre come un leone, eh? Sì, sì. Senti, s'annuncia un governo Rotondi. Senti, senti la proposta di Rotondi. Ma non eh? Vuoi parlare della, di Obama all'ONU sulla Siria, no? No, no, no, no. Senti, no, Rotondi, no, che propone il condono, amico mio, il condono fiscale col governo Rotondi, dai, ti prego, no? Sentiamo. Vincessi le elezioni, il governo Rotondi farebbe la riforma fiscale, come Berlusconi ha promesso per 20 anni e non è riuscito a fare, e con la riforma fiscale anche una forma di condono che in qualche modo sa. Col governo Rotondi un condono fiscale. Bruci in piazza un regime. Non esiste nessun governo, perché bisogna dare notizie false? Senti, non Busi su Rotondi. Non esisterà mai un governo Rotondi. Senti Busi su Rotondi, però, che mi pare un po' più serio. Rotondi, ecco Rotondi. Io l'ho guardato tante volte e dico, ma Rotondi, ma avrà una sessualità, per esempio? Io sarei curioso di sapere la sessualità di Rotondi. E sarei curioso anche di sapere la sessualità di Casalecchio, per la verità, cioè non è che... Però Abusi, azzecca il nome almeno, hai detto Casalecchio e Casaleggio in realtà, la sessualità di Casaleggio, effettivamente ci sarebbe da discutere su questo, però signor Rotondi è uno tranquillamente, credo, cioè eterosessuale, uno che ha una sessualità normale, non è che se uno c'ha quella faccia non può scopare, diciamo, su. Cioè ragazzi, di che parliamo, dai, andiamo. Dai. Lo so. Abbiamo con noi un mito, una leggenda, un deputato agrigentino, credo, Alessandro Pagano, PDL, buonasera. Buonasera, ma sono di Caltanissetta. Ah, Caltanissetta, è vero, Caltanissetta. Lì, no, beh, no, siamo lì, bisogna sempre precisare, bisogna sempre precisare. No, ce l'avevo pure scritto, tra l'altro, sono Pagano. Ho commesso un errore, vabbè. Senta, ma esiste la lobby omosessuale, secondo lei, signor Pagano? secondo me, beh, sotto gli occhi di tutti, certo che esiste. Beh, adesso sotto gli occhi di tutti. Chi è il capo? Chi è il capo della... No, può darsi pure che lei abbia ragione, però secondo lei chi è il capo di questa lobby? Se io so chi è il capo, sono tantissimi. Pensi che l'altro giorno c'è stato un coordinamento Pride GLBT, sì, che mi pare che si chiamasse Alter Eva, un nome che, sì, che evoca già qualcosa. Che come si chiamava? A bloccare a Casale Monferrato, sono andato a bloccare una pacifica conferenza che parlava di un argomento che era, sì, la transfobia, l'omofobia e l'abolizione dell'uomo, questo è il titolo super giù, sì, e sono andati là e sono andati a bloccare. È chiaro che quella è una piccola lobby, un piccolo, comunque esiste una persona che in maniera, sì, non pacifica è andata a bloccare un'iniziativa culturale. Ma sono violenti secondo lei quelli organizzati? Cioè questa lobby ha anche degli atteggiamenti violenti nei confronti? Ma sai, la violenza è sempre un qualcosa, sì, molto generico. La violenza può essere fisica, la violenza può essere psicologica, può essere verbale. Questi qui sono andati là, sono andati a interrompere una manifestazione. Io provo a immaginare a fatti, sì, contrari. Provo a immaginare se ci fosse stata una manifestazione pro-homo, sì, che assolutamente sarebbe successo un casino. Sarebbe in questo paese, perché siamo in un paese libero, e dall'altra, sì, parte qualcuno l'avrebbe proibito. Lei cosa avrebbe detto? Scusi, che quelli là erano dei violenti, psicologici, dialettici, chiami come vuole. Beh, lei ha paura, che anche al, sì, lei ha paura di alla lobby omosessuale? Perché dovrei avere paura? No, paura, paura. Mi faccia capire la sua no, psicologia. Perché non la mia psicologia? Avere paura? Beh, se lei dice è una lobby che può impedire di parlare, c'è una lobby potente, uno potrebbe dire impedire. Ho paura di questa lobby. No, io le ho portato un dato ben preciso. Ha impedito che ci fosse una manifestazione. Quindi non è una. Ma chi è il capo di questo? Ci sarà un capo di questa lobby? Lei identifica un capo? Che ne so? Cioè, Io non faccio lo studioso. Lei lo vado a fare questo ragionamento a coloro che fanno sociologia dei movimenti. Però io esiste una lobby organizzata. La lobby è un contesto che spesso è identificato in maniera così generica, eterea, che serve a identificare qualche cosa che certamente ha una finalità pro qualcuno, nel caso specifico questa organizzazione. Scusi, perché lei fa una distinzione tra gay sereni e gay ideologizzati? C'è una cosa curiosa questa qua, i gay sereni e tranquilli. Lei riferisce il mio intervento in aula. Beh, scusi, in aula è proprio la massima espressione, no, della democrazia. Certo. Lei in aula ha detto esistono due categorie. No, ma perché lei mi ha seguito molto bene. Io seguo tutto, due categorie, perché, i gay sereni, perché, guardi, e quelli è ideologizzati. La differenza che esiste tra una persona tranquilla e una persona che invece non lo è. Allora, tranquillamente, chi è omosessuale, cioè, sì, ne conosciamo tutti tanti, sì, io ne ho anche tanti amici, tanti elettori, quindi certo, quello si dice sempre. Beh, che un elettore gay possa votare per lei mi pare difficile, dottor Pagano, professor Pagano. Ma lei forse vive di pregiudizio, dovrebbe farsi un'analisi psicologica, perché da questo punto di vista... Ma perché devo fare io un'analisi psicologica? Scusate, pazienza, no, pregiudizi, però... No, ma guardi, se lei mi viene a dire che c'è qualcuno che non vota a me perché è omosessuale, lei ha dei pregiudizi, secondo me dovrebbe farsi una bella analisi. No, ma io l'analisi la posso fare per tantissimi motivi. Se vuole venire a trovarmi, sono disponibile anche a fare un confronto con lei. No, assolutamente, però voglio dire, lei, tutti si possono separare in persone tranquille e persone meno tranquille. Perché lei, lei ci aggiunge, esistono gay tranquilli e gay un po' più nervosi, ideologizzati, che vuol dire? Beh, sono quelli che hanno, secondo il mio modesto parere, e non secondo il mio modesto parere, che si rifanno un'ideologia, l'ideologia dei gender, l'ideologia che ha come obiettivo quello di stabilire degli schemi, sì, nuovi, di negare quello che è il diritto naturale, sì, e comunque all'interno di questa logica, per carità, loro possono fare quello che vogliono, perché l'Italia è un paese libero. Ah, questo meno male. Deve avere la propria opinione. Grazie. Così come ce la devono avere loro. È chiaro che si pretende, lo dico tra virgolette, ma quello io, la libertà d'opinione si assolutamente, anche guardi, di più, lei può anche dire assolutamente di chi evidentemente ritiene che il matrimonio naturale sia assolutamente quello tra un uomo e una donna sia. Dottor Pagano, guardi, le dico subito una cosa, se lei dicesse i froci mi fanno schifo, guardi, se lei dicesse una cosa del genere, i froci mi fanno schifo, io difenderei il suo diritto a dirlo e di non essere accusato, di non essere messo sotto processo, di non essere portato in tribunale. Guardi, eccetera. Lei allora da questo punto di vista non va d'accordo con me, perché se come lei no? lo dice un'altra volta, a me personalmente questa sua espressione non piace. No, no, io lo dico, ma non perché lo voglio dire, ma non perché quella sarebbe offesa e sarebbe un motivo abietto per cui in base al codice penale, l'articolo 61, no, in base all'articolo 61 io potrei andarla a denunciare, lo sa questo? Ma questo lei si sbaglia su questo, No, io non mi sbaglio. Traffico, guardi, torniamo subito. Che ma guardi che non lo dico, io sono uno che garantisce i diritti, però odia le volgarità. Ma non lo penso, ho capito, ma uno ha diritto alla... E frasi come quelle che le ha detto. Oh. Guardi che non deve dirle queste cose, deve stare molto attento. No, ma io non ho detto, non ho detto che lo dico. Non posso andare a denunciare sul serio. Scusi, dottor Pagano, io non è che l'ho detto. Ho detto, se uno dicesse una cosa del genere, andrebbe difeso, secondo me. Io vi vi adoro, io vi adoro. Ogni giorno vorrei fare la zanzara. Abbiamo con noi uno dei più fieri oppositori delle norme sull'omofobia, Alessandro Pagano, PDL. Parenzo, ci sei o no? Ecco, io stavo provando a intervenire anche prima, partendo dal presupposto che l'ora dell'aperitivo è dalle 8 in poi, e quindi c'è una certa... No, qualcuno inizia anche alle 6 e mezza, dottor Pagano mica è mica ubriaco. Pagano invece è sobrio ed è persona per bene, devo dedurre che a quello che dice crede veramente. Ma cioè, che devo cosa, per esempio, ai gay? No, esatto. Devo davvero dedurre che, avendolo detto in Parlamento, lui veramente pensa queste cose sui froci, giusto? Cioè, i gay sereni e i gay ideologizzati, dice. Esattamente, stiamo parlando di questo, no? Di questo stiamo parlando, cioè gay sereni e gay ideologizzati. E questo conferma, no? Per capire proprio, no? Sì, conferma, esistono due tipi di gay, giusto, dottor Pagano? State parlando, facendo la domanda su di me oppure state parlando di me? Di lei, noi parliamo, facciamo, possiamo, di lei. Possiamo. No, ma siccome quello che ho detto in Parlamento. Sì. E ma questi fronti del merito. Meglio di come di una frase che è stata detta in un pubblico consesso, frase assolutamente per eccellenza, non può andare. Ma lei si fiderebbe di un professore di scuola, di un maestro omosessuale? Ma scusi, ma perché pensa che non ce ne siano? No, ma appunto, ma lei si fiderebbe di dare suo figlio in una, diciamo, di affidare suo figlio ad una scuola dove magari c'è un professore omosessuale? Sì o no? Ma uno basta che dice sì o basta che dice no? Non è che guardi, il problema è legato semplicemente se questa persona è ideologizzata o meno. Ma come ideologizzata? Ma che bisogna fare l'esame? Porta avanti una ideologia e quindi come tale ne fa diventare una ragione di vita. E dunque bisogna fare un esame da questo punto di vista? Scolastici. Se invece è una persona che vive la sua sessualità in maniera normale, in maniera assolutamente pacifica, serena, facendo il suo lavoro di professore, qualunque materia se sia. Ma perché dovrei avere io di pregiudizi? No, però scusi, come si fa a sapere se uno è ideologizzato? Bisogna fare un esame prima? Ma basta vedere i comportamenti, guardi. Cioè uno deve analizzare di un professore omosessuale, secondo lei, scusi, se ha comportamento... Ringraziando, guardi, io penso una cosa, noi abbiamo un precedente. Qual è il precedente? Perché, vede, non è che dobbiamo cercare di trovare il pelo nell'uovo, facendo domande che poi alla fine possono, come dire, cercare di... Dunque lei si porrebbe un problema però, Nel giudizio, come mi faccio venire, no, nel giudizio complessivo. Abbiamo un precedente, è accaduto domenica 22 settembre 2013. Che è successo? Quindi esattamente tre giorni che è successo? Due giorni fa. A Casal Monferrato, quindi stiamo parlando in Italia. Ma lei l'ha già detto questo, l'ha già detto, però io sto facendo un'altra domanda. Una manifestazione pacifica. Se suo figlio, lei ha figli. No, ma ho capito, lei ha già detta questa cosa di conduttore. Però nello stesso tempo. Scusi, dottor Pagano, lei ha già. Ma lei lo vuole, dica quello che vuole, e allora questo No, scusi. Io dico, c'è una manifestazione. Ma lei l'ha già detto, l'hanno interrotta, hanno sbagliato, Qualcuno con tanto di cartelli e impedisce di parlare. Questo è l'omosessuale ideologizzato. Benissimo, allora io la domanda. Perché l'omosessuale sereno, tranquillo. Che rispetta gli altri perché chiede rispetto. Come si fa a fare queste cose, signor conduttore? Allora, scusi, Pagano, uno può fare tutte le manifestazioni che vuole, però anche quello. Che vuol dire? Cioè, io le ho fatto una domanda precisa. Che vuol dire? Le ho appena manifestato, lei mi ha fatto una domanda. Che differenza c'è? No, io le ho fatto un professore. Deve imporre le sue idee, costi quel che costi. Allora, come anche si fa? Differenza psicologica. Le ho citato un esempio. La legge non è neanche passata. Niente, non mi fa parlare. Pensa di vincere in questo modo. Utilizzano questi momenti di euforia come una clava. Se lei vuole fare il comizio, se lei vuole fare un onorevole Pagano, se lei vuole fare un comizio, faccia pure. Non è il luogo giusto per fare un comizio questo qua. Onorevole Pagano, le voglio chiedere una cosa. Se lei, ha figli? Certo che figli. Quanti anni, scusi, mi posso permettere? Ne ho di tutte le taglie, ne ho quattro. Di tutte le età, vabbè, d'accordo. Quattro figli. Se innanzitutto, se uno fosse omosessuale, per lei sarebbe un problema? Ma perché dovrebbe essere un problema? Ma no, ma una domanda! Ma non ne posso fare una domanda. Lei continua a ripetere una domanda a cui ho già risposto. Benissimo. Però lei mi ha detto bisogna distinguere tra un professore. La propria sessualità. Lei ha detto. E dobbiamo rispettare le persone. Io, così come chiedo rispetto, devo dare. Come si fa a distinguere tra un professore ideologico? Continua a insistere per la quarta volta, ma ho già risposto. Vabbè. Purtroppo per lei ho già risposto. No, ma lei non mi ha ancora spiegato come si fa a distinguere tra un maestro di scuola, un professore omosessuale ideologizzato. Tranquillo, posto che si possa fare questa differenza, cioè posto che si possa fare. Guardi, purtroppo attraverso un'analisi dei testi, attraverso l'esempio. Cosa? Scusi, non c'è peggio sordo di chi non vuole intendere. Quel Cruciani magnifico che fa la zanzara su Radio 24, uno che se ne strafote, dica. spazio sotto il salice, salice, non stare lì. È indubbio che Silvio Berlusconi ha dovuto fare i conti con, dico i termini, di un indubbio accanimento. Se quello ha avuto 40-50 processi e via dicendo, è indubbio che nei suoi confronti, ho anche detto che lui ha collaborato molto con i magistrati, ha fatto tante di quelle stronzate. Forchielli, perché Letta, al di là di dire la stabilità, dice le difficoltà sono dietro di noi, voglio dire Sì, perché ce l'hanno in culo. Ma Berlusconi va in paradiso o all'inferno? Io spero che vada in un dove deve andare e finalmente mi richiami con lui a dirigere il TG4. E dopo questo bestiario possiamo partire con i titoli del TG4. Sì, del TG4. Il TG4 era quello che rivuole Fede, TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Telecom, ultima società di telecomunicazioni Italia, passa agli spagnoli di Telefonica, allarme dei sindacati. PD e PDL, il governo riferisca alle Camere. E per salvare l'Alitalia si avvicina la soluzione Air France, ma la compagnia d'Oltralpe ora alza la posta, non vogliamo accolarci anche i debiti. Nuova manifestazione a Verona dei 1400 operai del gruppo Riva a casa da 10 giorni, venerdì il decreto per sbloccare i fondi già sequestrati. Letta a New York, non è facile gestire una grande coalizione, faccio del mio meglio ma la stabilità prevarrà, Telecom vigilerò ma la società è privata. Scontro PD-PDL sulla legge che abolisce il finanziamento ai partiti, muro contro muro anche sulla presidenza delle commissioni bilaterali. Il presidente americano parla all'assemblea dell'ONU sull'Iran e sulla Siria, scegliamo la diplomazia ma tutti devono rispettare gli impegni presi. Il presidente Kenyotta, ha finito l'assedio al centro commerciale, 5 terroristi morti, 11 catturati, ma c'è ancora incertezza sul numero delle vittime. Ma non abbiamo finito sulla Boldrini, sulla mitica Boldrini che ha scoperto che c'è una differenza di generi, cioè la vita ha più di un genere, il genere maschile, il genere femminile, cioè noi la paghiamo profumatamente con i vostri quattrini, quelli che sono nelle vostre tasche, voi che siete in macchina, che vi fate un culo così, che siete sui camion, che siete sui taxi, che vi fate un mazzo così, e dovete sentire il presidente della Camera, cioè la terza carica dello Stato, discettare di generi. Esiste il genere maschile, esiste il genere femminile, e contro gli spot che presentano una donna che fa la mamma e che serve la colazione a tavola o il pranzo a tavola. Ma di cosa stiamo parlando, amico? Io divento pazzo per queste cose, vado al manicomio. Senti questa cosa qua, no, risentiamo i generi, va, risentiamo i generi. Allora, se una giudice chiede di essere chiamata la giudice, se una ministra chiede di essere chiamata la ministra, se una presidente della Camera chiede di essere chiamata la presidente, sì, ecco. Perché lo facciamo? Perché? E che ne è so? Per affermare che la vita ha più di un genere. Evviva! Ha più di un genere. E la gente applaude. Non è un esercizio ozioso. Ma non c'è solo questo. Risentite, incazzatevi. Risentite e incazzatevi. Non può essere concepito normale uno spot in cui i bambini e il papà sono tutti seduti e la mamma serve a tavola. Guardate, merita una riflessione questo. Ci sono più professoresse che professori. Ma se io chiamassi il maestro Giancarlo Rossi la maestra, signora maestra... E perché uno dovrebbe chiamarlo così? Venga, si accomodi, signora maestra. Se io chiamassi il direttore Calabresi direttrice... Alla terza volta mi direbbe, ma Scusi, lei ha un problema. Lei ha un serio problema. Io ogni giorno mi sento chiamare signor Presidente. Ogni singolo giorno. Sono grandi problemi quelli che assillano la terza carica dello Stato. Grandi problemi, ascoltatori. Paghiamo la gente per questo, per raccontarci che non va bene essere chiamati presidente al maschile. Amici miei. Dai. Su, non mi fate incazzare, dai, oggi. E poi ha ragione Sgarbi, Che ha detto Vittorio? Aspetta, ha ragione Sgarbi. Non mi molesti il moschito. Non mi molesti il moschito. Why don't you go on? Tu hai detto, se bisogna muovere la primavera di Botticelli da Firenze, non bisogna chiedere a Renzi, se bisogna muovere i bronzi, bisogna chiedere a Comune e Regione. Perché? Perché la Calabria è una regione, io sono andato in Calabria, sono diventato un draghettista, vado in Sicilia, sono stato mafioso, cioè l'Italia non è tutto uguale. Lui si candida a Forlì e a posto, se si candida a Reggio Calabria diventa mafioso. Cioè l'Italia è piena di coglioni, molti prefetti, molti magistrati, molti ministri. Hanno sciolto il mio comune per mafia, dove ho fatto cose, ci è venuto anche D'Ambrosio. Cioè, è un mondo di pazzi. Oh, caro Parenzo, ti ricordi quando andammo a Bergamo? Come no? Al tour della Zanzara, certamente. Oh, ti ricordi che c'era una bellissima ragazza bionda con noi alla fine della trasmissione? Verso la fine della trasmissione? Verso la fine? Molto bella. A Bergamo. Sì, vabbè, ma tu non ti ricordi un cazzo, dai, su, mamma mia. Una ragazza bionda. Sì, molto bella, alla fine, insieme a Vittorio Feltri. Poi Feltri se n'è andato, è rimasta lei. Ah, dai. Come no, la signora Risi. Ma che Risi, quella era Padova. Quella era l'amica di Sgarbi, la pornostar. Dai, su, questa non fa la pornostar, Perché ah, io... no, era l'ex fidanzata del Trota. Elena Morali è con noi, showgirl, buonasera. Siamo Morali? Ciao a tutti. Come stai? Come stai? Bene, voi? Bene, bene. Sai che adesso fa Colorado Café su Italia 1, no? Ha fatto la sì, no, io so che è stata fidanzata con il signor Bossi Junior. Sì, oh, vabbè, roba vecchia tanti quella, anni fa. Mamma mia. Tanti anni fa. Però devo dire la verità, siamo Morali. Ma ci ha fatto l'amore anche col figlio del Bossi. Immagini, sì, non è che uno sta, con uno ai tempi, io chiedo. Ai tempi, no, giocavamo sulla carte. Esatto, briscola. Sai che combatte come una leonessa, siamo Morali in tribunale, quella che a un certo punto ha dato quasi del coglione a un magistrato, se non direttamente, è vero, siamo Morali? No, non ho mai dato del coglione, non mi permetterei mai di tipo, dare quasi. No, dai, io ho 22 anni alla fine, ho sbagliato e si può sbagliare, facciamoci una risata sopra. Vabbè, ha detto non avevo a me... mai visto un tribunale in vita mia, perciò è andata così. La prossima volta spero di non vederlo o che vada meglio. È convocata per la vicenda, ti ricordi, di Ruby 2 per testimoniare, non mi ricordo quale processo, a un certo punto disse a me non me ne frega nulla se voi avete le tonache. Era meraviglioso, le tonache invece delle toghe. Comunque fu molto aggressiva nei confronti dei magistrati, questo ci piace sempre. Per noi, signora Morali, lei non le andava di andare in tribunale, trovava fastidiosa anche alcune domande, perché a un certo punto... Ma sì, perché alla fine abbiamo parlato solo di Renzo Bossi, perché io in quel processo neanche c'entravo, poi ero convocata dalla difesa, perciò a un certo punto basta parlare di Renzo Bossi, ne ho parlato fin troppo. Ma appunto, a un certo punto il magistrato gli chiese, ma lei è vero che è stata fidanzata con un uomo politico? Chi col figlio di un politico? Uno dice, ma chi se ne frega? Ma che vi interessa a voi? Vabbè, comunque, siamo Morali, devi sapere che è molto amico della fidanzata di Berlusconi, che ha chiesto a Berlusconi di sposarlo. Hai visto questa intervista a Mani di Ferro? No? Quanto è amica lei della signora Pascale? Diciamo tanto amica mia. Tanto è una amica, bellissima persona. Qua, beh sì, certo. Non ci si vede molto, però diciamo che l'amicizia non si fonda su quante volte ci si vede. Lei è più amica della Pascale o del signor Dudu? Del signor? Dudu. Del signor Dudu. No, amore, che tenero che è il Dudu. È bellissimo. Ah, è molto tenero il Dudu. Comunque sono amica della signorina e sì. Abbiamo la passione per i cani, perché anche io ho un cane. Non anche come lei, suo, eh. Però. Ma è più bello il suo? Bianco. È più bello il suo? È più bello il suo. È più bello il bianco, eh. Ma quante volte vi sentite al telefono? Messaggi pure WhatsApp, lei usa molto WhatsApp, pare. Sì, più che altro messaggi, perché non la disturbo al telefono, poi non mi piace stare molto al telefono. Ma è tipo una regina ormai, tutto, là nella cosa da fare, tutto il... è appunto rinchiusa lì nella reggia di Arcore, come che ha detto là? La nuova Kate. Magari. La nuova Kate. Le piacerebbe essere al posto suo? La Morali? No, io preferisco, cioè ovviamente lei ha un posto molto, molto bello, però diciamo, beh, lei è certo. innamorata, perciò se fossi innamorata sarebbe un conto, ma siccome se non è innamorata va bene niente. Il mio. Cioè, Morali certo non è che è andata, cioè, si è fidanzata sempre con persone di un certo tipo, bisogna sottolinearlo, Parenzo. Perché voglio capire. Se aspetta esempio... un attimo, fammi ricordare un attimo i fidanzati, che è giusto dirlo. Allora, innanzitutto c'è stato anche il signor Balotelli, se tu non no, questa è una gran cavolata, scusate se lo dico, ma io non no, ho mai no, visto no, può dire anche una cazzata, mai visto no, in vita non sua. L'ho mai visto in vita mia. E perché dicono sempre che lei ma ragazzo, perché i siti hanno associato me a una certa Eliana Cartella che è stata con Bozzi. Roba incredibile. Ma io non lo conosco e lui potrebbe anche dirlo, però non una ho roba mai incredibile, parlato in vita mia. Roba... Adesso sta pure con noi. Mi piacciono di un altro tipologia. Di un altro colore, diciamo. No, colore va bene, però a me piacciono i biondi occhi azzurri. Biondi occhi azzurri. Sino che è pequeño, però non mi sembra biondo con gli occhi azzurri. No, però si può cambiare. Ah, però ecco. Lui diciamo che non è il mio tipo, ecco. Non è il suo tipo, c'ho Balotelli. No. Ma Elena Morali, che adesso ci racconterà alcune cose che riguardano la Pascale, fidanzata di Berlusconi, che ha detto che aspetta solo il sì di Silvio, aspetta solo il sì di Silvio, cioè gli ha chiesto, lei ha detto l'ho conosciuta quando ero minorenne, poi ho aspettato che divorziasse, eccetera eccetera, adesso praticamente aspetto solo il sì. Non siete seri per niente. Francesca Pascale a Vanity Fair su Silvio, fermi tutti, l'ho cercato, l'ho corteggiato, l'ho fatto innamorare e l'ho fatto fidanzare, ho fatto e faccio tutto io, lui deve solo dire di sì. Risponde Silvio, mi ha ridato la voglia di credere nell'amore, nell'amore sincero di una donna, con in braccio Dudu. Beh, sono belle cose, Parenzo, sono belle cose, non ti emozionano queste cose qui di sentimento, queste cose di queste cose mi sta venendo... che vengono fuori dal cuore? Mi sta venendo lo sbocco, guarda. Ma perché lo sbocco? Non ho capito, perché solo le cose che vivi te sono originali, solo le cose che vivi te sono vere. Ma e no, gli altri non possono vivere l'amore, non ho capito, non posso. Ma insomma, ma mettere in signora piazza Morali, dica, queste... ma perché mettere in piazza? Sono due uomini pubblici, fanno un'intervista a Vanity Fair. Signora Morali, ma lei dai, che conosce bene la Pascale, dica a Parenzo che invece è tutto vero, che è un amore sincero, un amore giù, un amore corretto, un amore ma un io amore non discuto quello. Un amore che non ha interesse, come dire, che non è un amore di interesse. Io lo posso dire perché la conosco bene. Io penso che dal cuore giustamente tutti possano criticare qualunque cosa, certo, come è giusto che sia, però io le posso dire che conoscendo lei e la devozione che ha verso quest'uomo, o l'amore la devozione, che trova per lui, devozione. Sì, nel senso in tutto quello che fa, nel senso che lei è la prima sostenitrice di lui, è devota, la prima... molto devota, sì, è vero, sì, sì, lo ama davvero tanto. Poi all'apparenza può sembrare tutto diverso, però uno dovrebbe conoscere esattamente nella profondità dell'animo di una persona, o comunque almeno conoscerla bene di persona per certo. poter giudicare. Senta, ma è vero poi che ha le sue idee? No, beh, certo, certo. Però... Scusi, Morali, ma lei non pensa appunto che insomma lei si è messa a posto per tutta la vita, diciamo la verità, se si sposa fa un colpo, no? Fa un colpaccio, siamo là, questo. Beh, bisogna... ma allora quante persone si sono sposate sono state a posto tutta la vita? No, però voglio dire, però è vero, se no, uno sposa Berlusconi fa comunque fa un colpaccio. Ha visto Veronica quando si è separata, i soldi che ha preso l'ex di Silvio? Beh, è la sua prima ex moglie, mi sembra che l'abbia sposata, ma non abbia neanche mai chiesto questa cosa. Beh, non lo sappiamo, però sicuramente pure lei avrà avuto... gli ha dato sicuro. Beh, sicuramente dà qualcosa pure alla prima moglie, non è che sta lì a mangiare il pane con l'acqua la mattina, no, ecco. Beh, allora nessuno si può fidanzare con lui perché lui è... Beh, certo, infatti ho detto fa un colpaccio, dica la verità, il colpaccio la sua amica lo fa il colpaccio o no? Fa un bel colpo. Sinceramente questo. Io penso che lei faccia una cosa che dividerà da tanti anni e perciò stia bene così, stia bene con se stessa prima di tutto e poi se sarà... Ma lei si sposerebbe con un uomo di 77 anni? Mi dica la verità, mi dica la verità. Sinceramente, se dovessi essere innamorata di qualcuno, l'età, si dice che in amore non c'è età. Perciò non si sa mai nella vita. Perché però qualcosa... A proposito dell'età, magari lei trova in questa persona quello che è una persona di 30 anni adesso. Sì. Io però voglio dire, signora, mi perdoni. Di 30 anni tra non è che trovi chissà cosa. Sì, no, però... Però mi perdoni, tra un bellissimo 26enne, metalmeccanico Fiom, ma bellissimo, con un fisico pazzesco, e un 76enne indubbiamente miliardario e anche con un suo fascino, lei, in tutta sincerità, ma chi sceglierebbe? Ma io sinceramente sceglierei quello che come animo mi fa star meglio, quello che Come carattere mi fa stare meglio, vabbè, perché ho conosciuto tanti 26enni che vabbè, fisicamente il fisico cede. Io stessa dico che il mio fisico cederà, perciò o uno si mette con me per, tra virgolette, vabbè, la testa che ho, o se no è inutile. Sì, d'accordo, però insomma. Vabbè, non ci sono però, secondo me, nel senso che uno deve darti qualcosa, a lungo andare il fisico passa. Se non ti dà qualcosa la persona è inutile starci insieme, perché poi uno si separa. Sento una cosa, ma lei crede al fatto che la Francesca Pascale, sua amica, abbia chiesto lei a Berlusconi, diciamo, come sembra da questa intervista, abbia chiesto lei a Berlusconi di sposarla? Guardi, io vedo che ci sono già molte anticipazioni, ovviamente. Vabbè, no, secondo lei, secondo lei? Secondo me è un amore vero e secondo me si sposeranno. No, beh, d'accordo, secondo lei si è sicuro che si sposeranno, è sicuro. Secondo me questa è la mia sicurezza. No, ma è lei che lo ha chiesto, come è, o lui che gliel'ha chiesto? Guarda, io su questo non posso esprimermi perché uscirà tutto domani, perciò vabbè, appunto, non sembra voglio che anticipare niente. No, ma sembra che esca, che è stata lei a chiedere, no? Sembra che è stata lei, che però vabbè, ma alla fine chi se ne frega? Ma alla fine chi se ne frega? Ma chi potrebbe essere la testimone di nozze? Se lei sposano, che l'ha chiesto uno o l'altro, alla fine quello è il di più. L'importante è lei vuole avere figli, secondo me, la signora Pascale, che dice lei? Quello di sicuro. Sicuro, vuole avere altri figli, eh? E come fa? Non è ancora di figli. Complicato però, lì, E come fa? È complicato però. Non lo so, però non è facile. Di sicuro lei vorrebbe avere dei bambini, come tutte le donne ne vorrebbero avere, penso. Gliel'ha detto anche, Sì, gliel'ha detto, ha espresso questo desiderio. Che donna non vorrebbe avere dei bambini? No. Io penso qualunque donna. No, ma gliel'ha detto proprio, cioè, voglio avere un figlio da Silvio, immagino di sì, gliel'abbia detto lei, amica sua, se non vedete queste cose. Parliamo di tante cose e sicuramente un desiderio che ha come donna è avere un figlio. Non c'è dubbio. Però certo è complicato, a 77 però anni. Però magari potrebbe arrivare questo il, siccome il 29 settembre è il compleanno di Berlusconi. E beh, allora che c'entra? No, potrebbe arrivare il 29 settembre questo grande regalo di Berlusconi che dice, annuncia ufficialmente, forse la signora sa qualcosa in più, cioè potrebbe aver scelto anche questa data per non è già incinta, non è che è incinta, no, signora Pascale? Ah, queste cose non tocca mai dirle, assolutamente. No, però, non potrei mai dire a un'altra persona le cose sue. No, beh, certo, ma non è che c'è, si può escludere? Si può escludere al 100%, non si può escludere. Guarda, io su queste cose così private non le direi di me stessa, perciò. Beh, però lo escluda, dovrebbe escludere. No, non me l'ha detto, lo escludo al 100%, me l'avrebbe detto in caso. Non si esclude niente nella vita. Nella vita non si esclude, cioè potrebbe anche essere incinta. No, beh, questa qua. Non penso che adesso sia incinta, anche perché guardando le foto, come voi potete notare, non mi sembra che sia le foto che c'entra. Ma vogliamo ricordare la grande performance della signora Morali in tribunale. Voglio sentire la signora Morali in tribunale, perché la cosa mi dà gioia, mi dà soddisfazione, cari ascoltatori. Elena Morali, showgirl che sfida i magistrati in aula. Sentite. Il processo non è un gioco. No, neanche il suo. Senta, allora forse mi non sta ci offendendo. Non sta parlando con lei e di lei. No, ha detto che non è un gioco. E il gioco è riferito a me. A me non me ne frega niente. Signora, qua avete tutte le toniche. Signora. Io le mie cose private. Signora. Guardi, posso anche uscire? Lei non può uscire, perché sennò faccio riprendere i carabinieri e portare dentro. Quindi sta lì e risponde alle domande. Beh, siamo al top. Volevo ricordare questa performance. Non si penta di quello che ha fatto, signora Morali. Non bisogna mai pentirsi. Anche quando uno dice tonache, le tonache, una cosa di sincerità, erano toghe, per carità. Le tonache, sì, però, Madonna, dà l'idea. Beh, a 20 anni avrà fatto qualche sbaglio alla mia età, no? Ma li faccio anche adesso. Scusi, però lei. No, ma molto, molto bello quando dicono: se no, non va da nessuna parte, altrimenti mando i carabinieri. Io non lo sapevo quello questa molto cosa, sinceramente. Beh, di ventenne, non sono mai stata in tribunale, perciò. Vabbè, non sapevo proprio cosa andava incontro. Comunque lei non avrebbe fatto niente. Lei, il figlio De Bossi, che pechegno, altri, uno normale, no, un amico di scuola, un passante, uno sconosciuto, no. Vabbè. Grazie, a presto, grazie. Grazie a lei, grazie. Le zanzare di casa. È tornato Razzi, amici miei della Zanzara, è tornato Razzi, il mitico senatore abruzzese. Sentite che dice: in Svizzera il reato per cui ha accusato Berlusconi non c'è. La cruda verità. Lei l'ha capito perché è stato condannato Berlusconi? Ma è stato condannato? Il reato qual è? Qual è il reato di Berlusconi? In qualsiasi paese del mondo. Il reato che viene accusato, perché è il reato che viene accusato, che è per questione di di dichiarazione di redditi. Questione di dichiarazione di redditi? Sì, in altri paesi, prendo la Svizzera da dove vengo io. Non va assolutamente certo, in galera. Per un reato di dichiarazione dei redditi in Svizzera non va in galera, caro Sarazzi. Io mi farei difendere di ufficio proprio dal signor Razzi. Però non è avvocato. Senti un altro passaggio. Se mi guardi, ti giuro, mi confondi. Ma qual è il reato esattamente? Lo sa lei? Come si chiama tecnicamente? Beh, tecnicamente io non sono un professore come te. No, dico proprio la. Non se lo ricorda. Sto dicendo. Il reato di? Di falsa. Diciamo, falsa? Diciamo uno che, sì. Che non ha dichiarato i redditi. Di... Non è quello però, eh. No, non è quello. Cioè... Siamo qui 800 24 00 24. Vincenzo da Treviso, buonasera Vincenzo. Salve. Dica. Io sono un medico. Sì. Sono gay. Sì. Sono un aspirante professore universitario. Sì. E sono idealizzato, come dice l'onorevole Pagano. Sì. Il quale si fa portavoce del PDL in quanto eletto nel collegio della Sicilia dove i gay non esistono, sono tutti maschi. Ma che ne sai che non esistono gay, scusi? È così. Io vengo dalla stessa provincia dell'onorevole, dove nessuno è gay. Nessuno è gay, nessuno si dichiara gay, è diversa la cosa. Dietro la porta lo sono tutti. Vabbè, allora quindi, Vincenzo, cosa vuole dire? Professor Vincenzo? Voglio dire che io sono fiero di essere gay e che i miei alunni sicuramente ricevono una preparazione magari migliore di quanti si professano etero. No, quello non lo può dire. Magari migliore non dipende dal fatto che lei è gay o etero. Appunto. Aspettavo che lei mi dicesse questo. Per dire all'onorevole però Pagano. Però l'onorevole Pagano dice che lei potrebbe essere ideologizzato. Dunque, se è ideologizzato è un problema per l'insegnamento. Ma lui che è stato professore all'istituto di ragioneria per 20 anni, essendo eterosessuale, anche lui poteva essere realizzato e non sappiamo che danni abbia creato ai suoi ex alunni se nelle sue classi aveva alunni gay. Vabbè, cioè, Vincenzo, ho capito. Antonia da Milano, buonasera Antonia. Buonasera. Dica. Intanto saluti e allegria a tutti, no? Giusto. Ma allegria, sì. Dipende, saluti. Possiamo stare anche felici, no? Ma non ci piacciono queste cose, a noi non ce ne frega niente di questi preamboli, di questi preliminari. I preliminari sono più importanti in altre cose. Bene, allora io volevo dire che la signora Boldrini potrebbe parlare delle sue idee, delle sue posizioni altrove, no? Sì. E magari rivelare un po' meno nervosismo, nevrosi un po' meno nel parlare di queste cose. Ma il tema è importante. Fondamentale, sì. Se uno deve essere chiamato presidente o presidentessa, avvocato o avvocatessa, minchio o minchia, è fondamentale. Io sono un professionista e solo posso essere d'accordo con lei su questo. Lei che cosa fa di mestiere, scusi? Io sono un consulente, mi occupo di incidenti stradali. E comunque, al di là di questo... Scusi, diciamo lei è avvocato, che cos'è? No, è una professione nuova che... Vabbè, ma adesso voglio dire, se non è che se la chiamo consulentessa o consulente, vabbè, no, consulente, non me ne frega niente, anche perché consulente vale per tutte e due, ma comunque io di solito quando chiamo un avvocato donna, dico avvocato, ma non è che l'avvocato donna mi dice scusi, no, mi deve chiamare avvocatessa, se ne fotte. No, perché... ma io credo che di fondo ci sia anche un bisogno. Di identità, no? In questo mondo dove comunque... Ma quale identità? Su, ma proprio appunto perché non conta nulla e per fortuna cioè, le donne sono ormai in tutte le professioni che non ce ne frega più niente di fare queste distinzioni. Scusi, ma poi, non ho capito, anche fosse un problema, ma che diavolo ci interessa di conoscere il parere del Presidente della Camera in un convegno dove ci sono davanti 200 persone che, come dice Parenzo, non fanno un cazzo? Beh. E andiamo. Sono perfettamente d'accordo con lei. Però la signora Boldrini, magari in altri modi, senza far diventare questa cosa ridicola, perché parlando in quel modo, in quei toni, è ridicolo. Però in altri modi, ci sono delle sensibilità, mi creda, perché io... Ma lei ancora non mi ha convinto che questa cosa qui è un argomento fondamentale. L'Italia non sta, per carità, poi ci sono tanti altri problemi... Posso dire una cosa a cuore sincero? Io sono una donna ormai fuori da quello che è il discorso del corteggiamento, delle cose, perché ho un'età e anche una vita felice alle spalle. Non si butti giù. Ecco, Prego? Non si butti così giù, no? Un'età, eccetera. No, beh, insomma, sono scelte, bisogna essere realisti, non sono mica... Vabbè, cioè, allora... È normale, no? Ci sono tante stagioni nella vita, io sono in una stagione felice in cui gioisco di cose altre rispetto al corteggiarsi, al fare, no? Però ho una giovane figlia... Beh, ma il corteggiamento è sempre buono, eh? Comunque. Vabbè, ci penseremo, ci vedremo. Però ho una giovane figlia, molto bella, molto, molto intelligente, allora? molto che fa fatica a trovarsi un uomo perché o sono trans, o sono gay, o sono sposati, no, o adesso, non ce la fanno adesso, con la testa. No. Antonia, sua figlia ha problemi, adesso che lei dice ha problemi a trovarsi un uomo perché sono trans, sono gay o non so che cosa, questa è una solenne minchiata. Sua figlia ha problemi a trovarsi un uomo perché probabilmente o è brutta o non gliene frega niente a nessuno, o è lei antipatica o ha problemi lei, abbia pazienza. Se lei dice è una bella ragazza eccetera, che problemi dovrebbe avere? Non è che è il mondo cattivo, se vogliamo chiamarlo cattivo, o so gay, so trans, ma di che stiamo a parlare? Su, dai, Antonia. Dai. Lei potrebbe vedere di che profilo di persona si tratta. Ho capito, ma allora avrà qualche problema, se è così bella e non trova un uomo, che c'entra? Non no, ho capito cosa c'entra. Ma il problema è di relazionarsi su un piano sul quale ci si intende. Questo problema c'è, è un problema sociale serio. Ma che c'entra sua figlia che non trova un uomo, scusi? No, era per fare un esempio, era per dire, no? No, ha sbagliato esempio, grazie Antonio. Ma per dire che cosa? Non lo so per dire che cosa, non trova un uomo la figlia e questo è un problema. O so trans o so gay, una follia totale. Paolo da Belluno, Paolo. Buonasera Cruciani. Dica. Allora, io volevo dire una cosa rivolgendomi direttamente a Silvio Berlusconi e ai suoi parlamentari. Sì. Che bisogna essere consapevoli che Silvio Berlusconi è stato, sì, il forse lo è ancora, un delinquente, un farabutto e un criminale. Bene. Ma questo... E questo mi voglio assumere la responsabilità, spero che mi quereli. Come ma ha nessuno fatto la quererà, guardi, nessuno le darà la soddisfazione di essere querelato. Guardi, infatti sarebbe stata una grandissima soddisfazione, purtroppo non l'avrò, ma voglio dire una cosa. Non l'avrò, ancora. Se lei voleva una platea, se lei voleva una tribuna per riaffermare il fatto che Berlusconi è stato condannato e dunque tecnicamente è un delinquente, un criminale, quello che vuole, l'ha avuta. Andiamo oltre, qual è il Andando punto? Andando oltre voglio dire un'altra cosa, sì, e cioè che i parlamentari di Silvio, sì, Berlusconi, nel momento in cui continuano a tenere Silvio Berlusconi come leader, sì, legittimando il criminale, legittimano anche il reato che ha commesso. Sì. E dunque, a quel punto, visto che i reati di diversa gravità, ma sono sempre reati, allora a sto punto legittimano tutti i reati. Scusi, ma lei ha ci ha pensato la notte per dire questa cosa oppure... No, è che sto aspettando di parlare dalle 18:30 quando mi avete chiamato. Ah, appunto, l'ho elaborata nel frattempo. Era in gabbia. Era in gabbia. Cioè, lei... Sì, no, ma ora sono in piscina, mi sono liberato. Ah, in piscina? Che sta facendo, sì, in piscina? Sì, ma ho fatto in tempo a arrivare a casa, a cambiarmi, a arrivare qui in piscina. Cioè, lei vuole dire i parlamentari del PDL, avete PDL, sì, che sostengono un criminale. Vabbè, ma questo abbiamo capito. Vabbè, no, è una cosa anche un po' importante. Poi ma sì, ma lo sappiamo, sostengono, no, un criminale, ma la storia è più complessa, non si può ridurre a questa roba qui. No, cioè, ma sì, sicuramente è più complessa. La dice meglio Travaglio. Vabbè, ma io mica faccio il mestiere di Travaglio, scusi. No, ma la dice meglio, da questo punto di vista. Leggiamo un articolo di Travaglio, risolviamo tutto la questione, no? Cioè, è facile, è un criminale, ha commesso dei reati secondo alcune sentenze, va benissimo. Vabbè. Sì, e quindi c'è la, sì, libertà anche di essere criminali in Italia. Ma no, ma fosse così semplice la questione, non è che siamo tutti pazzi e gli unici eletti sono quelli che tecnicamente dicono vabbè, Berlusconi è criminale, è stato condannato, via. Fosse così semplice, è un po' più complessa la vicenda, no? Leggermente più complessa, poi per carità, cioè, anche secondo me a un certo punto basta, però contano anche altre cose, questo c'è ancora i voti, gli interessi, eccetera, eccetera. Io sono un po' più realista, cinico da questo punto di vista, che me ne fotte. Oh, è con noi, sai che Berlusconi lo vogliono tutti, Parenzo, lo vogliono... lo vuole Don Mazzi, lo vuole quel prete lì incredibile in Calabria. Ma lo vogliono in che senso? Ai servizi sociali, lo vogliono un po' tutti. Sì. Lo vogliono un po' tutti. Persino, l'aveva già detto, l'amico Mario Capanna. Capanna, buonasera, come sta? Oh, buonasera, chiedo venia, ma lei è quel giovane vecchio conservatore di Cruciani? Ma no, conservatore, guardi, direi anche reazionario. Ah, bene. Io sono quello che dice che sostanzialmente la notaia, i cantieri della TAV vanno protetti, per esempio con i fucili, vanno protetti sappiamo, con i... Sappiamo, sì, mi ricordo, io suggerivo addirittura l'impiego della bomba atomica, si ricordi? Beh, lei adesso per provocare diceva la bomba atomica, io invece mi fermo, non signor alla bomba... Capanna! Però Capanna. Mi fermo... Dunque, allora, cosa volete sapere da me? E ha rimandato... Noi vogliamo solo dire... Noi intanto vorremmo ciao Mario, dire questo, perché questo qui alle 8 di sera mi ricarica. Solo questo. Dai Katanga, sono contento. Dai Katanga fuori la spranga. Questo mi rimette di buon umore. Ma perché ti rimette di buon umore? È una delle cose più è una delle porcherie più incredibili, dai. No, veniamo al dunque o la mandiamo in chiacchiere? Beh, noi siamo specialisti nel mandarla in bacca, però. Veniamo al dunque. Siamo specialisti nel mandarla in bacca. Comunque, allora, vabbè, Berlusconi viene da lei o no? Non verrà mai, diciamo la verità, Capanna, su. Che viene a fare alla Fondazione Diritti Genetici? Detto con tutto il rispetto, Berlusconi con la scrivania lì da lei. Non è serio. Sbagliate. Perché? Beh, anzitutto da ambienti, come dire, a lui molto vicini, sì, con cui io tengo i contatti, so che lui ha letto con attenzione la mia lettera. Vabbè, questo gliel'hanno detto a lei, gliel'hanno fatto credere a lei. No, risulta, diciamo, con certezza. Risulta con certezza. E ha persino sorriso. E dai, punto, io dico, tenga conto che da noi, alla Fondazione Diritti Genetici... Sì, che poi ancora non ho capito che diavolo vuol dire diritti genetici. Si lavora sodo. E con fatica, ma sì, anche con il sorriso. Ma io non credo che Berlusconi voglia lavorare solo dei servizi sociali, caro. Vuole farsi, giustamente vorrà farsi fare le foto accanto, se mai ci andrà, accanto ai poveri, eccetera, per fare grandi campagne pubblicitarie e grandissima campagna elettorale. Sì, servizi sociali. Credo che lui si trovi di fronte a un problema, no? Beh, quello sicuro. Anzitutto c'è un elemento, diciamo così, di novità che mi ha colpito e che è un po' all'origine della decisione nostra. Sì. E che il fatto che Berlusconi, come dire, mi è diventato collega, cioè? È un condannato come me. Beh, adesso, voglio dire, sì, lei è condannato dai tempi del per, tra virgolette, reati connessi alle lotte studentesche, di cui naturalmente vado orgoglioso, no? Sì. E lui, come noto... Lei perché reato per è stato reato, condannato, lei, scusi? Per un reato molto meno nobile che quello di frode fiscale. No, però, come dire, la condizione di condanna ci accomuna. Allora, il ragionamento è... una volta che seguendo anche i consigli dell'ottimo avvocato Coppi sembra propendere per i servizi sociali, che va a fare? Aiuta le vecchiette ad attraversare la strada, va a pulire i cessi in una comunità, raccogliere i pomodori da Don Mazzi, perché no? Esatto, in una comunità di recupero per tossicodipendenti, io ho detto, e tra l'altro, come dire, sono stato il primo a fargli una proposta. Si viene a lavorare da noi, può mettere a frutto le sue indubbie qualità di leader politico. Non me moleste moschito. Io ancora non ci credo, perché sto ricevendo veramente tantissime telefonate, tantissime mail, e quasi un bombardamento su questa vicenda della Boldrini. Come cazzo si fa? Io dico, come cazzo, la questione dello spot. Lasciamo perdere la questione della presidenta e presidentessa, presidenta della Camera, queste puttanate qua. Ma lo spot. Perché uno deve mettere bocca sullo spot, amico mio? Pare che ci abbia chiamato pure il signor Barilla, il signor Barilla ci abbia chiamato, noi stava ascoltando lui, il signor Barilla ci vuole spiegare dopo, magari lo diciamo, beccarlo, oppure sì, ti giuro, c'è chiamato il signor Barilla. Ma non è arrabbiato il signor Barilla? Ma no, il signor Barilla sarà incazzato con la Boldrini, spero, ma non si incazza mai con nessuno, ecco. Figuriamoci. Perché per questa storia dello spot. Anche perché siamo molto amici del signor Barilla, da sempre. Ma io no, veramente io no, non lo conosco, però. Mai conosciuto. Comunque, vabbè, d'accordo, siamo amici, nel senso. Ma c'è proprio un signore che proprio signor, cioè proprio lui, il signor Barilla. Ma è certo, sì, non c'è dubbio. Comunque, sentiamo questa puttanata della Boldrini, dai. Non può essere concepito normale uno spot in cui i bambini e il papà sono tutti seduti e la mamma serve a tavola. Guardate, merita una riflessione questo. Merita una grandissima riflessione. Pure lei, Capanna, che ha fatto il 68, ma contro questi epigoni. Ora, lei si rende il presidente, io non so se le sia simpatico come il presidente della Camera. Mi dica la verità, signor Capanna, lei che ha fatto il 68, una persona seria, uno che ha fatto le barricate, le ha fatto le manifestazioni, ha fatto quello che ha fatto, è stato pure condannato per queste cose qui. Insomma, uno che non è che è nato ieri, mi dica la verità, ma non è una puttanata inaudita questa roba qua? Me lo dica, prego. No, perché lei deve mantenere la promessa. Prima della pubblicità mi aveva detto che mi faceva spiegare il perché della proposta. Ma io lo faccio spiegare, ma si figuri se non glielo faccio spiegare. Solo che mi viene, cioè non è che la Zanzara è diventata una trasmissione di pubblicità, ma siete matti a mandare 5 minuti di boiate pubblicitarie? Ma scusi, ma Capanna, noi c'è, ecco, la pubblicità, ci fa campare a noi, si ho capito. Ma mandatela all'inizio e alla fine, se uno sta facendo un ragionamento, fatelo. Ho capito, ma io posso anche essere d'accordo con lei. Comunque, se state zitti un minuto, no, aspetti, aspetti. 30 secondi vi spiego la sensatezza della proposta. Sì, un attimo, però io l'avevo chiesto un parere, scusi, però mi fa seguire un discorso mio, sennò altrimenti fa il comizio. Lo so che lei è abituato, però No, è lei che è logorroico. Ma può darsi, ma io per mestiere so devo essere logorroico, però facciamola corta, mi fa parlare o no? Sì, ma lei che ne pensa di questa cosa della Boldrini? Non che glielo dico, perché mi importa di parlare dei servizi sociali di Berlusconi, che è la ragione per cui mi ha chiamato. Ma tanto non viene lì a fare i servizi sociali, si mette l'anima in pace, non viene. No, non ma viene. Se la metta lei invece, perché c'è una notevole possibilità, ma sa perché? Ma perché? Perché venendo a lavorare da noi, appunto, non a pulire i cessi, non a far attraversare le vecchiette la strada, può esplicare al meglio le sue indubbie capacità, che sono quelle di leader politico e quello di avere una grande mole di contatti, di relazioni nazionali e internazionali. Vabbè. La nostra proposta è che lui si occupi da noi di un progetto strategico, che progetto? Che tra l'altro ha l'appoggio di 7 ministeri del governo. Ma che gli frega Berlusconi? Mirante a fare di Roma la capitale euromediterranea della ricerca scientifica partecipata. Ma beh, la ricerca scientifica partecipata. Ma Berlusconi, non mi date il tempo, non sto a spiegare cosa significa. Ecco, meglio di no, meglio di no. E allora, come vede, la proposta è molto seria. Tra l'altro, vi do una notizia, come dire, inedita. Bene, ottimo, questo non ci piace, ottimo, Ed è che io da qualche giorno ho chiesto un formale incontro con il presidente Berlusconi. Ah, beh, ma scusi, ma ci sono migliaia di persone. Non capisco, no, proprio francamente, non capisco cosa c'è da ridere. Ma ci sono migliaia di persone che chiedono incontro a Berlusconi, è come il Papa. No, attenzione, ma io glielo chiedo perché sono persuaso, se volete sarà un atto di immodestia, che se riesco a parlargli guardandolo negli occhi, lo persuado. Beh, scusi, quelle sono tante persone, però fanno così, devo dire, comprese anche molte donne. Nel passato, scusi, forse oggi. Signor Capanna, però mi scusi. Come dire, io sono di un'altra di un'altra parrocchia. No, io vado senza, come dire, fini di lucro. La fondazione la fondazione dei diritti genetici non ha fini di lucro. Allora, io le dico subito, però le anticipo. E disinteressato. Questo non c'è dubbio. Disinteressato non c'è nulla, perché comunque se Berlusconi andasse da lei a fare i servizi sociali sarebbe comunque una grande cassa di risonanza e pubblicità, giustamente. Vede. C'è un altro aspetto. Qual è l'aspetto? Scusi, essendo reazionario, come si è autodefinito, molto reazionario, forse non è, come dire, propenso a valutare. Qual è? Pensi al significato culturale, morale, per lo scuola interessatissimo, di due avversari. Sì. Perché tale io sono nei confronti di Berlusconi e tale lui resta per me. Che, come dire, si comportano da avversari ma non da nemici. Sì. Pensi. Che messaggio eccezionale. Ricciuti sia di destra che di sinistra, che elemento e valore simbolico questa scelta non c'è starebbe. Beh, Parenzo, vuoi rispondere tu oppure faccio io? Perché se faccio io mi incazzo. No, fai tu che... Voglio dire, come grande Capanna, io ti voglio bene perché tu ci credi veramente. Cioè, credi ma che ci crede, dai, su, ma non scherziamo. Ma Berlusconi non gliene frega nulla del progetto Euromediterraneo. Ma dai, non sa neanche cos'è la ricerca partecipata. E dai. Scusi, la risposta... Scusi, ma perché fa così? Si rifiuta di capire. Ma no, ma ho capito, ma mi pare una cosa così velleitaria, francamente, detto con tutto rispetto. Secondo lei... No, ma è una cosa velleitaria, non succede. Poi io, per carità, sono, guardi, facciamo una promessa. Ma poi cos'è la ricerca genetica? Per vabbè, lasciamo perdere cos'è la ricerca genetica. Però allora io le dico una cosa, Capanna, le giuro di fronte a chiunque, cioè un giuramento ufficiale, se Berlusconi va da lei a fare i servizi sociali, sono disposto a regalare alla sua fondazione metà del mio stipendio, mensile, metà. Metà. Spero che gli ascoltatori abbiano sentito assolutamente bene. Se Berlusconi va da lei a fare il presidente e la fondazione eccetera, metà del mio stipendio mensile va al signor Mario Capanna, che se lo può spendere pure per andare a prostitute o per andare dove vuole, signor Capanna, oppure per direttamente alla fondazione. Però le dico che metà del mio stipendio va a lei. Se Berlusconi va a fare i servizi sociali alla fondazione dei diritti genetici, io lo posso assicurare. Scusi un attimo, una domanda: ci stanno donne lì, belle ragazze lì, alla fondazione dei diritti genetici? Questo potrebbe essere un elemento a favore. Posso farle io una domanda? Sì, mi dica. Ma secondo lei, Di Berlusconi si può dire di tutto, sì, tranne che non sia intelligente, no? Beh, quello sì, per i suoi fini, naturalmente, ma non c'è dubbio sul fatto che sia una persona. No, ma non c'è dubbio. Ora, secondo lei, perché non dovrebbe venire da noi, dato quel senso profondo di messaggio che ne verrebbe fuori? Primo, secondo, dato che è innegabile che solo venendo a lavorare da noi potrebbe davvero esplicare le sue capacità che ho ricordato. Vabbè, prima, ma questo l'ha già detto, lei è intelligente, ma lo sa, tante cose potrebbe fare Berlusconi. Ha richiesto, ho capito, ma quale l'avvocato opzione, Longo, l'avvocato, ma anche non lo sappiamo cosa c'è sul tavolo. Quale opzione migliore di questa potrebbe avere? Vabbè, ne indichi, ci stanno belle donne da voi o no? No, cosa c'entra le belle donne? Ma c'è, come c'entra? C'entra! Non è problema. Ma no, ci sono belle donne o no? Una bella vista? Ha sentito le intercettazioni là dell'interrogatorio di Berlusconi? Che ha piacere avere di fronte belle donne, giustamente. Ci stanno belle donne alla sua fondazione, sì o no? Certo che sì. Oh, questo, guardi, se ma utilizza. Questo è il punto. Perché manda tutto in vacca con queste robe? Ma io sono abituato a mandare tutto in vacca. Di solito. Sì, ma non è sensato, via, no? Ma no, ma si va alto e basso. Io l'abbraccio fortissimo. Grazie. Si ricordi la scommessa, eh? Si ricordi la scommessa, grazie. Prepari a cantoni lo stipendio. Ma quando mai? Quando mai? A cantoni, cominci. Siamo come lei, siamo come lei. Oh, saranno piccole cose, ma a me mi mandano i matti. Mi mandano i matti. È un genio, Capanna. Hai sentito? Hai sentito quello che diceva la signora Maria Rita Lorenzetti, già presidente della Regione Umbria, al telefono con una sua collega, con un collega. No, sì, una collega, diciamo, una collega. Quello studente va promosso. Deve passare presto l'esame di patologia. Risponde una sua amica: ho capito, ha bisogno di non essere fermato ingiustamente, diciamo così, per qualche finezza accademica. Poi questa signora, che si chiama Grossi, chiama il rettore dell'università. Il rettore dice, riferisce la Grossi, si è prosternato quando gli ho chiesto da chi viene la richiesta e cosa fatta. E come si diceva, ma a noi chi ci ammazza? A me queste cose di clientelismo, di nepotismo, di piccole raccomandazioni per passare un esame universitario, di baronia, queste cose di piccolo che mi fanno veramente orrore, mi fanno veramente schifo queste cose. Beh, infatti è indagata la signora. Ma sì, ma lascia perdere che è indagata, chi se ne frega che è indagata. La zarina è indagata. Chi no, se ne infatti, frega. Voglio dire, siccome lo scandalo non riguarda... Senti, la sua amica, l'amica di questa della signora Lorenzetti, dice, vedo domani il rettore... Domani pomeriggio, perché queste cose è meglio farle di persona. Comunque si è prosternato perché gli ho detto da chi viene. A disposizione, gli avrebbe risposto. Ti faccio sapere domani. Però, insomma, la persona è molto, molto vicina. È la sua allieva. Poi la richiama e dice, fatto. Sei grande, risponde la Lorenzetti. E come si diceva, a noi, ma chi ci ammazza a noi? Roba incredibile. Merita una riflessione questo. Dai. Io penso davvero, Parenzo, che per il tasso di banalità pronunciate in questi primi mesi il presidente Boldrini sia uno dei peggiori presidenti della Camera. Lo dico veramente con tutto il rispetto, ma per le autorità civili, militari e politiche, però davvero penso che per il tasso di banalità, di cose che non c'entravano nulla, di interventi inappropriati, quando bacchetta i grillini perché osano criticare Napolitano, perché osano criticare con termini forti e con parole anche pungenti, con, a modo loro, il Partito Democratico, la grossa coalizione all'italiana, il governo delle larghe intese, penso veramente sia uno dei peggiori presidenti. Merita una riflessione questo. Eh sì, sicuramente merita una riflessione. Cristiano da Modena, Cristiano. Se tu non diventi cretino e via. Come? Non ho capito, Cristiano? Con chi sta parlando questo? Questo è un genio. Cristiano! Pronto? Ci devi avere già un bel prezzo anche per posizionare solo le 6 bottiglie. Le 6 bottiglie? Perché così poi, cioè. Ma che sta facendo questo? Devi essere già forte con le 6 bottiglie. Ma di tutta la gamba. Allora riesci a lavorare bene. Cristiano? No, poi dico una cosa, allora. Adesso io organizzo, andiamo su. Io in te, sì, volentieri. Io in te, io parlo l'angolo champagne. Ma di che sta parlando questo? A novembre, per dire che dopo dicembre non è che gli addobbi. Dove è centrato il concetto ora. Poi intorno, nello scaffalino ci metterò 6 bottiglie di Ruinac, nello scaffalino ci metterò delle bottiglie. Stanno parlando di come attrezzare un negozio. È ovvio che, per esempio sulla gamma. Cristiano? Pronto? Ma di che cazzo sta parlando? Scusi. Ma scusi, è ovvio che sul Brutte te la giocherai con Laurent Perrier, perché avrai un prezzo interessante. Laurent Perrier, stanno parlando di champagne questi qua. Cristiano, ma di che sta parlando? Perché c'è il Brut. Il Brut, sì. Poi? Millesimato 2004. Il millesimato 2004? Sì, certo. Ultra Brut, cosa vuol dire? È un prodotto, sai, ultra Brut, secco. Solo, perché quello è un vero Ultra Brut. Questo vende i cosi, capito, Lorenzo? Vende i... Qui abbiamo Rosé. Questo è buono, no? Rosé. Ma sì. Ha telefonato lui? Ma sì, ha telefonato, adesso sta parlando con un altro cazzone. Cristiano? Cristiano, scusi. Vabbè, Milena da Biella. Milena da Biella, lascialo lì parlare di vini e di champagne con i suoi clienti. Milena da Biella. Buonasera, pronto? Sì, vada, signora. Allora, io volevo parlare della signora Boldrin, che sta facendo fare una figura di merda a tutte le donne d'Italia. Perché? Ma non esageriamo. Ma, scusi, allora io adesso, un attimino solo, io facevo la cuoca, adesso sto facendo l'aiuto, cuoco, perché aiuto un cuoco, e se aiutassi una cuoca cosa sarei? Se, scusi? Se io aiutassi una cuoca, io sto facendo l'aiuto cuoco, sì. Perché in questo momento sto facendo l'aiuto Vabbè, cuoco. Farebbe l'aiuto cuoca, diciamo, una cuoca si può dire, tipo, quello fa il cuoco, sì, anche se uno dice che una, anche se uno... Anche se il cuoco è donna, è più facile dire cuoca, quella è una cuoca. E quando facevo il fotografo? Beh, la fotografa è più semplice, quello fa la fotografa. No, non si dice la fotografa, si dice la fotografo. Ma no, vabbè, ma al di là di questo, Milena, scusi, qual è il problema? Ma sono questi i problemi dell'Italia. Ma no, ma quello è fatto, appunto. Ma mi scusi, ma questa signora con la puzza al naso ha mai provato andare a lavorare alle 7 di mattina e finire alle 5 per una cifra... Vabbè, questo che c'entra però, scusi. Scusi, Milena, che c'entra questo qua? Niente. Voglio dire che noi ne abbiamo le palle piene, tutta Italia ne ha le palle piene. Io non le ho, grazie a Dio, non ho quelle. Non, beh, grazie a Dio. Non mi va di dire che cosa ho di bello pieno. Che cosa ha di pieno? Di queste minchiate. Questo d'accordo, signori, ma che cosa ha pieno signori, lei? Questi signori si pigliano una cifra che per me è folle, il mio guadagno di un anno, per discutere di minchiate. E quello siamo d'accordo, già Milena. Io ho un figlio che ha 13 anni, cioè... tra l'altro si chiama Isaac e adora Parenzo, io e lui ci siamo già sentiti. Vabbè, poi... Per andare alla scuola obbligatoria ho dovuto pagare 120 euro di iscrizione, 318. Vabbè, ma d'accordo, scusi, però Milena, lei sta dicendo... Ma questi sono i problemi dell'Italia, come... Ma come siamo d'accordo con lei, siamo con lei al 100%, io però... Io non ho neppure la televisione, non so neanche che viso abbia questa signora, ma mi fa schifo. Perché mi le fa schifo? Perché? Perché? Ma mi scusi, ma le sembra normale che... Questa gente che dovrebbe occuparsi, non dico del nostro benessere, perché forse è troppo, della nostra si mette a parlare del fatto che vuole essere chiamata presidente. Per come la chiamano? Sì, signora, sì. Non va benissimo. Se a me mi chiamano signora Milena mi sento onorata. In realtà mi chiamano sempre solo Milena, anche quelli che hanno... mi sta benissimo, io mi chiamo Milena e così mi chiamano. Questa non... quell'altra che non la devono chiamare, devono chiamarla onorevole, ma chi vuole la devono chiamare? Milena, sono con lei, però sono con lei perché onorevole onore. Però perché sta onore, perché sta onore. Oh, perché sta facendo calma. Onore. Perché vorrei capire, sta facendo fare brutta figura a tutte le donne? Perché? Ma mi scusi, ma lei pensa che le donne stanno a discutere di queste cose? No, non le gliene fatto un cazzo. Stanno a discutere di 120 euro di iscrizione alla scuola obbligatoria. Ma che cosa ha pieno lei? Se gli uomini ci hanno le palle, questo mi è rimasto un po' in testa. Guardi, no, no, l'utero. Mio figlio ha 50 anni, quindi non sono... Ma veramente ci stanno scoglionando, ci stanno martellando, ci stanno aggredendo da tutte le parti. Ma chi stanno aggredendo? Guardi, io aspettavo, perché ovviamente mi muovo in pullman, perché diversamente sì. Non posso fare... li avesse sentiti i discorsi, quello dovete fare, prendere un microfono e andare a sentire i discorsi della gente, chiudere le porte, buttare le bombe, ci hanno rotto le palle, che se ne vadano, cioè veramente... Ma qua noi abbiamo lei che ci riferisce queste cose. Milena, grazie, arrivederci, arrivederci, arrivederci. Antonia, Antonia di Milano è quella di prima. Scusi un attimo, cara Antonia, adesso sì. abbiamo suscitato un casino perché lei ci parlava di sua figlia. Ma scusi, ma com'è possibile? Quanti anni ha sua figlia? Beh, mia figlia ha 28 anni. 28 anni, lei dice una bella ragazza, giusto? Sì. Una bella ragazza. Cioè, bella, ma veramente bella, oppure lei lo dice in quanto madre? No, è proprio bella, è proprio bella. 28 anni, bella e non trova un uomo? Ma non è che non trova un uomo, trova cose, cioè che trova? O sono trans? Beh, no, ancora non. Lei l'ha detto, detto. No, io ho detto, beh, abbiamo fatto una vacanza di recente. Lei vive altrove, non è in Italia, siamo andati in un posto famoso e ad un certo punto c'erano due o tre sue amiche e si guardavano intorno, c'erano dei gran belli uomini che alla fine erano tutti gay. Si tenevano per manina, no? Sì. Allora, ognuno di noi sorride, però insomma, ad una certa età biologicamente avresti anche il desiderio di cominciare a pensare mi riproduco. Ed è dura, di questi tempi è molto ma dura. Ma che dura, ma sua figlia sarà brutta sicuramente, dai, su, Antonio, ma sarà brutta, ma non trova un uomo per altri motivi, ma su. Ma è perché la stabilità è difficile da... Vabbè, ma non sono problemi gravi, non sono problemi gravi. No, anche ce ne infischiamo, perché possiamo stare anche così, ma... Insomma, ritornando al discorso di genere, c'è una sofferenza in giro sul fatto che, ci sono questi branchi di gay, ma trans. Quali branchi di gay di trans? Non è che stanno a parlare, su. Ma qua qui ci stanno dietro il vetro della gente, avvelenata che sua figlia che la vorrebbe conoscere, subito. Dia il telefono di sua figlia dopo. Ma sta scherzando, mi uccide quella. Ma no, ma di che stiamo parlando? Quella lì è una che mi dice. Ma qua mi ha scritto un sacco di gente, voglio conoscere la figlia della signora Antonia, ha 28 anni, una bella ragazza che non trova un uomo perché ci sono branchi di gay, dai, su altro... non si può sentire questa cosa, branchi di gay e di trans e mia figlia, Parenzo, di qualcosa tu, dai. No, ma voglio dire, le cose sono due, cara, a questo punto, o ci manda, no, le cose sono due, lei deve sapere che uno dei più grandi esperti di donne di questa trasmissione è il signor Cruciani, allora lei sempre chiedendo lei stasera. Mandi immediatamente la foto della signorina e questo è il primo step da fare subito per capire se davvero lei ha ragione. Il secondo è che noi ci impegniamo a trovare alla sua adorabile signora un fidanzato. Magari non vuole un fidanzato, vuole, vabbè, adesso il termine inglese non lo voglio usare, ma insomma serve un amante, come dire, un amante, no o no? Vabbè, abbiamo il traffico. E che cos'è? È che è un bell'ambiente. Ambiente di maiali. IG Markets, trading su azioni, indici, forex. Scopri i CFD su igmarkets.it. Vi presenta Strade in diretta. Per un incidente, le code alle porte di Milano sulla A4, sul tratto urbano, tra il raccordo per Viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia. C'è un incidente anche a Napoli, all'innesto tra la A3, la Napoli-Salerno e l'Autosole. Sull'Autosole in Emilia si rallenta per lavori tra Parma e Fidenza, nelle due direzioni ci sono code per lavori sulla 22 del Brennero tra Pegognaga e Mantova Sud verso il Brennero e ci sono code per lavori sulla 26 dei Trafori in direzione Genova-Voltri tra la diramazione Predosa-Betta e Masone. Noi torniamo tra circa mezz'ora. Promo 24. Condominio, locazione, divisioni, successioni. Quante volte capita di litigare? In questi e in altri casi è obbligatorio rivolgersi al servizio di mediazione. Le Camere di Commercio offrono la soluzione più facile, veloce ed economica per risolvere una lite civile o commerciale. Presenti in ogni provincia, le 105 Camere di Commercio hanno una lunghissima esperienza in materia e consentono di trovare un accordo amichevole in tempi brevi e con costi contenuti e predeterminati. La procedura di conciliazione è rapida e i conciliatori sono i più preparati e per di più si può realizzare anche direttamente online sul sito conciliazione.camcom.it. La Zanzara. Partita la candidatura di Gianfranco Rotondi. Mentre Busi vorrebbe conoscere la sessualità di Rotondi e lo interrogheremo, caro Parenzo, lo interrogheremo su questo, signor Rotondi. Venerdì farò una conferenza stampa e presenterò la prima lista che si apparenta alla coalizione Rotondi Premier. La prima, spero, di una lunga serie in cui ci sarà anche Forza Italia. La lista di Rotondi Premier in cui ci sarà Forza Parenzo, ma perché? Perché? Perché? Stiamo preparando la coalizione con Rotondi Premier. Dai, su, Gianfranco. Manca un quarto alle sei. Stiamo preparando una coalizione con Rotondi Premier. Io sono un deputato di Forza Italia. Farò di tutto perché Forza Italia sostenga questa candidatura, ma se non lo farà me ne farò una ragione. Eh certo, immagino. Sì. Rotondi, ecco Rotondi. Io l'ho guardato tante volte e dico, ma Rotondi, ma avrà una sessualità, per esempio? Io sarei curioso di sapere la sessualità di Rotondi. E sarei curioso anche di sapere la sessualità di Casaleggio, per la verità. Casaleggio. Giuseppe da Torino, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Vada. Colgo l'occasione per fargli gli auguri del suo compleanno che è passato. Non me ne frega nulla, comunque. Lo so. Ma scusi, ma non è che qui è radio sgurgola marsicana, che uno fa gli auguri di compleanno. Sì. Andiamo. Vabbè. Forza, dai. E ho chiamato perché Parenzo ogni tanto ha delle esternazioni di vintage. Delle esternazioni? Non ho capito. Sì, lui ogni tanto fa del vintage. Perché ho sentito prima che parlava della storia se la moglie di Berlusconi se è stato un meccanico, quelle cose lì. Sì. Ma il metallurgico, quelle roba lì. Sì. Ma ormai è superata questa roba qua. Cioè lei dice ognuno può sposare chi vuole. Ma sì, ma Berlusconi io penso che dopo quello che ha avuto può anche decidere di sposarsi con chi vuole. Ma quello nessuno lo mette in dubbio, ma che vuol dire? Sì, la morbosità di noi italiani che ci preoccupiamo sempre dei problemi di Berlusconi, cosa fa, con chi va, invece di preoccuparci che magari c'è tanta gente che è nel sommerso, fa volontariato. Ma che c'entra adesso nel sommerso e volontariato con le nozze di Berlusconi, scusi? C'entra, perché la tensione è questa morbosità nei confronti di quell'uomo lì. Lui ormai ma è normale, ma scusi, la morbosità non è che faccio io un'intervista su Bani di Ferro, ma che l'ha fatta lei l'intervista su Bani di Ferro? No. C'è lui che ha fatto l'intervista su Bani di Ferro con Dudu e con la signora Pascale, in cui si annuncia urbi e torbi quello che succede, più o meno. Però e lei... allora la morbosità viene da sola, scusi, la curiosità viene da sola, o no? Sì, ma lei non pensa che magari questo modo di attirare l'attenzione su questi problemi che sono insignificanti servono a distogliere ma insignificanti per chi? Chi è che decide cosa è importante e cosa non è importante? Perché lo decide lei? Ma cioè, il popolo. Appunto, è il popolo, quello che dico io. Non mi mordere il dito. O intanto la famosa intervista. Ha fatto quello del vino. Aspetta, quello la famosa. Quello che vendeva il vino dove? No, quell'ascoltatore lì che parlava di vino, che fine ha fatto? Quello lì ha fatto i canti suoi. Che ne so. Comunque, la famosa intervista di Barbara Berlusconi a Ballarò, l'intervento si è ridotto ad una piccola intervista, due domande strappate dopo la partita Milan-Napoli o durante o prima, non mi ricordo, in cui Barbara Berlusconi ha detto mio padre non è un delinquente e poi per adesso la politica non mi interessa. Questa è la sostanza, il grande scoop. Ma abbiamo con noi un altro erede della famiglia Cacciari, erede della famiglia Cacciari, Tommaso Cacciari, buonasera. Buonasera a tutti. Come sta? Mio amico da tanti anni. Tu, ogni volta dici questo è amico mio, poi si scopre che non è vero, non te conosce, l'hai visto tre volte in vita tua. Tommaso, conosco da quando eravamo al liceo, io ero al Tito Livio, il liceo classico di Padova, e lui era a Venezia, conosco molto bene anche il suo papà, il grande Paolo di Rifondazione Comunista. Sì, lo sai che non ci può vedere a noi, no? Abbiamo chiamato, siete dei porci, dei maledetti, fa schifo la trasmissione, eccetera, eccetera, non vuole venire. E abbiamo fatto delle battaglie incredibili perché lui era già con i giovani dei centri sociali e tu eri moderato un moderato della sinistra giovanile e moderato adesso pagato anche da Berlusconi, hai capito signor Cacciari com'è passato Parenzo, com'è finito? Siamo messi male qui, ma perché suo padre non ci può vedere? Comunque le colpe dei padri non ricadono mai sui figli. Questo è importante. Per non parlare di quello degli zii. Ma perché? E che rapporto ha con suo zio Massimo, che ieri ha fatto un grande elogio della signora Barbara Berlusconi qui alla Zanzara, dicendo che è bravissima, una persona che è molto umile anche, che non fa assolutamente pesare il suo lignaggio, la sua appartenenza alla famiglia Berlusconi. Insomma, la vedrebbe molto bene come competitor politico. Che opinione ha di suo zio? Ah, io ottima, dopo politicamente la vediamo diversamente su tantissime cose, ma abbiamo un bellissimo rapporto. Cioè vi vedete, vi frequentate? A volte. A volte, eh? No, spessissimo. Non spessissimo. Cioè... Ma non ti dice mai, ma che cosa stai facendo, ma che cosa dici? Sempre. Come credo che lo dica a tutti, ma... Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. C'è l'aria del letto. I grandi problemi dell'Italia, secondo il presidente della Camera. Cosa ti devo fare? Ti farò quello che vuoi. Ci sono più professoresse che professori. Ma se io chiamassi il maestro Giancarlo Rossi, la maestra, signora maestra, venga, venga, si accomodi signora maestra. Se io chiamassi il direttore Calabresi, direttrice, alla terza volta mi direbbe, ma scusi, lei ha un problema, lei ha un serio problema. Io ogni giorno mi sento chiamare signor presidente. Ogni singolo giorno e basta. Caro Parenzo, è un problema, Signor Cacciari, è un problema anche questo, è un problema serio, problema serio. Lei che ha di questi problemi, anch'io mi sento chiamare, che ne so, sei uno stronzo, a me mi insultano tutti i giorni, eppure non è un problema. Se uno viene chiamato presidente invece di presidentessa, uno dice basta. Ma io dico, ma com'è possibile una cosa di questo? Dico, com'è possibile? Com'è possibile? Vado ai pazzi, vado ai matti. È un'ora e mezza che mi sciarbello, dici calmati, non basta, non esagerare, no. Ogni volta che lo risento vado ai matti, come uno si possa accalorare o possa considerare un problema il fatto che ogni giorno uno sente, non perché è più semplice, perché è normale, perché è sempre avvenuto, perché non gliene frega un cazzo a nessuno. Scusi signor presidente, no, lei dice mi deve chiamare presidentessa, ma vaffanculo, va. Merita una riflessione. Ma questo. Quale riflessione? Cacciari, sono più no global di lei io, su. Ecco. Sono più no global di lei, sono più incazzato di lei, diciamo la verità. Lei o oh no, ma che sta facendo? Pronto? Sì, ma sta ascoltando o no? Come no? Sono più incazzato di lei, ha sentito, sì. Lei è più incazzato di me, beh, vediamo, non lo so, sì, dipende, sì. Forse su questo argomento sì. Su questo argomento sì, io dico più posso novia... chiedere se è nelle vostre possibilità, sì, di togliermi l'eco, se no io mi sento. Sì, no, ma lei ha ragione, ma magari il problema non è nostro, non lo so, ma adesso mi sente bene lei o no? No, io lei la sento bene, sento la mia voce con 5 secondi di ferita. Ah, adesso la richiamiamo, ogni volta ci sono questo cazzo di problemi. Lucio da Perugia, buonasera. Lucio. Buonasera. Dica. Buonasera, volevo parlare di Capanna io, che avete detto che è una brava persona, ha fatto il 68. Ma così, ma scherzavamo. Gli operai. Allora, Capanna c'ha una poltrona all'autorisi della telefonia, che non so che vuol dire. Comunque, come quella ce ne può avere tante altre. Forse sarà. Ma non credo che abbia. Però adesso contro. Sono tutti uguali alla Lorenzetti? Come, scusi? Credo che sono tutti uguali alla Lorenzetti, perché quello lì deve lasciare il posto da uno giovane. Che c'è sta a fare? Lì ci avrà 90 anni. Ma non lo so, non credo che abbia poltrone di qualche non tipo. Non è poltrona, l'autority della telefonia. Adesso controlliamo. Che cazzo c'è? L'altra cosa, volevo parlare con Parenzo, di che è un po' fichetto. Nel senso che dovrebbe andare, dato che è di sinistra, dovrebbe andare dal popolo, da noi, a intervistarci, perché siamo tutti un po' incazzati. Guardi che io... Guardi che io giro costantemente nei torpedoni, nelle metropolitane, io giro gli abissi delle città. La gente invece di sta fa il fighetto, che sta fa un po' ma il fighetto. Fighetto? Io giro i mercati, parlo ogni giorno vado al lavoro, prendo la metropolitana qui a Roma dalla stazione Lepanto e scendo alla stazione Termini, da lì prendo un'altra linea, non quella per Bibbia ma quella per Anagni, e scendo al Circo Massimo, ancora vedo per dare, incontro persone, gente che mi abbraccia, ascolto storie. Adesso non esagerare, abiti a Prati, in un quartiere borghese, sei una persona, no, sei una persona che guadagna, adesso non fare il populista da quattro soldi, dai, su. La metropolitana tutti i giorni. Vabbè, ho capito, va bene, per carità, infatti nessuno ti dice nulla, però prendo torpedoni, vado a piedi. Ma non c'è dubbio, sì, perché non c'è la patente, te credo. Accetto gli sputi, è una cosa super snob. Accetto gli sputi, ma anche gli abbracci delle persone che mi dicono bravo, continua così, ma come fai con quello lì? E io dico, beh sì, effettivamente è difficile. Quando mi dicono avanti così con quello lì, ma come fai? Parla di te, quando mi dico come fai con quello lì? E dico, infatti, alle volte è molto difficile, però si tira, tang dur, mi dicono anche. Tang dur. Vabbè, Lucio, la cassiamo così. Intanto uno mi scrive, abbiate il coraggio di difendere, oltre alla sacrosanta causa gay, il diritto di qualsiasi ragazza a scoparsi chi vuole. Parlava della Pascale, ma figuriamoci, è qua zio Cacciari, è tornato in onda. Allora, come qua. Scusi. Roba delle navi, perché ha ragione Tommaso Cacciari No, signor Cacciari, perché lei vuole togliere i soldi ai commercianti, alla gente che guadagna dall'arrivo di questi turisti, oppure non gliene frega niente di questi quattrini che arrivano a Venezia? No, mi scusi, mi dica. No, guardi, io non voglio togliere nessun quattrino, nessun commerciante, nessuna gente che lavora. Queste navi non portano assolutamente guadagno ai commercianti. Ma come no? Le dico molto semplicemente. Ma come no? No, perché i dati stessi della Venezia Terminal Passeggeri, cioè quella SPA che gestisce, l'unica che si prende... Cioè portano solo danni, portano solo danni e basta. Portano alla città, portano solo danni, perché solo il 75% di questi passeggeri non smonta nemmeno dalle navi. Ma hanno fatto dei calcoli, sono dati loro. Hanno fatto dei calcoli, signor Cacciari, in un weekend le tasse, quelle che portano di attracco, comunque di passaggio, eccetera, eccetera, e i soldi che comunque vengono spesi dalla gente, ci sono circa 400.000 euro. Perché lei vuole togliere, dato che magari c'ha il culo in caldo, i soldi a Venezia o a chi guadagna? Il culo in caldo forse ce l'ha più lei che me. Ma non i soldi, le tasse di attracco che pagano queste navi, le pagano all'autorità portuale, al Ministero dei Trasporti. Circolano, è denaro che circola, e se queste navi si fermassero fuori dal centro storico veneziano, pagherebbero di meno, sicuramente. Chi l'ha detto? Vabbè, ma allora che ci sono quelli cattivi? Forse smonterebbero di più. Scusi, ma allora perché sono cattivi? Le dico anche questo, che forse smonterebbero di più. Se si fermassero fuori dalla città di Venezia per vedere la città di Venezia e non accontentarsi di una fotografia dal 17° ponte. Allora, chi è il cattivo? Forse spenderebbero di più. Chi è il cattivo? I cattivi sono le compagnie da crociera, che multinazionali finanziarie che nulla hanno a che fare, tra l'altro, non solo con la città ma neanche col nostro paese. L'MSC Svizzera, la Costa Crociere, nonostante, meno male. Ma non sono cattive, sono gente che fa il mestiere loro, cioè quello di portare la gente in giro per il mondo. Che potrebbero farlo. A lei fa schifo andare in crociera? Lei fa schifo? A me, io non trovo il turismo da crociera una sorta di disastro antropologico, ma c'è un lager, una sorta di lager, un divertificio galleggiante, cioè dopodiché interessante questo. Negli alberghi, e questo ormai gli albergatori cittadini lo hanno dichiarato, cioè ma allora, dormono in nave, mangiano in nave. Pensi che il fatturato di queste navi da crociera per il 50% solo viene dal biglietto, per il restante 50% viene dallo shopping interno, perché questi sono dei qualcosa, centri commerciali. Qualcosa spendono, Cacciari, qualcosa spendono pochissimo. Vabbè, pochissimo. Pochissimo. Nulla in confronto ai danni che lasciano. Quelli sono soldi che spendiamo noi, i commercianti e i lavoratori di Venezia pagano i danni che questi fanno. I profitti. Che danni? Che quali sono? Quelli forse futuri, secondo una tesi che è quella del che ci ha illustrato ieri suo zio, che dice che provocano danni nel sottosuolo, eccetera, allora, eccetera. Vedremo. Provocano diversi tipi di danni. Vabbè, ma la sostanza è questa: perché lei vuole togliere alla città questo guadagno? Questo non riesco a capire. Allora, perché non è un guadagno, ma è una spesa, è una come spesa. Ha tra l'altro dimostrato. Scusa, ma se fosse così semplice. Croato, se fosse così semplice, se fosse così semplice, allora sono masochisti a Venezia? Sono masochisti? Chi è masochista? Ma allora, il comune sappiamo che non può intervenire, ma secondo me non è nemmeno vero. Il comune sta intervenendo e sta lavorando per allontanarle dalla città. A Venezia c'è un movimento ormai fortissimo, domenica hanno chiuso i negozi. Ma lei andrebbe, le fa proprio così schifo una crociera, eh? Sì, no, ma poi se uno ci vuole andare, io per carità, non è che sono ideologicamente. Però i turisti da crociera sono un po' turisti del cazzo, diciamo la verità. Su, Un turismo che ritengo estremamente invadente, Ma veramente quelli stanno sopra la crociera. Comunque, vabbè, appunto, sì, lei dice invadente. Sono queste le navi da crociera, io non so se lei che conosce così bene l'indotto. Ma è un po' da cafone andare in crociera, ma secondo lei? Secondo me sì, però ognuno è libero anche di fare il caffone, non è quello che mi interessa. No, meno male. Vabbè, la questione è aperta. Comunque anche per me sarebbe meglio la vista, quello che vuole. Però non è che tutto va valutato così sulla bellezza. Ha detto delle cose ragionevoli. No, ma non c'entra niente la bellezza. Non c'entra assolutamente nulla la bellezza. C'entra che noi viviamo la singolare situazione di avere un porto arretrato rispetto al mare. Ma chi sono i profittatori di questa roba qua? Possibile che ci sia, non si risolve? Siccome autorità la questione portuale, autorità portuale. Sì. Che si becca i soldi e poi e Venezia Terminal Passeggeri, che è una SPA formata dall'autorità portuale che gestisce gli attracchi. Là parliamo di centinaia di migliaia di euro. Ma non è che sono che ci sono i soldi. Ho capito, ma sono vuol dire sono enti credo partecipati da qualche spiegando. Tommaso Cacciari, nella sua lucidità, ti sta spiegando. Io poi voglio chiedere cosa è disposto a fare per bloccare quei mostri. Esatto, del mare, cosa vuole fare? Cosa è disposto a fare? Allora, noi come Comitato No Grandi Navi abbiamo dimostrato di essere disposti anche a buttarci in acqua con i nostri corpi nudi davanti bellissimo. A questi. Ma che bellissimo, una stronzata. Bellissimo, ragazzi. Bellissimo. Bellissimo, infatti ha fatto. Scusi, lei farebbe un boicottaggio delle cose? Anche, lo farebbe il boicottaggio della TAV, per esempio? Cosa vuol dire un boicottaggio della TAV? Dei cantieri della TAV, lo farebbe un boicottaggio? Certo. Senza ombra di dubbio. Cioè, in che modo? Lei che ne so, boicotterebbe? Lei saboterebbe un cantiere? No, io le dico senza proprio ombra di dubbio che il 4 luglio scorso ero nei boschi da tagliare quelle reti. Lei ha commesso un reato? Lei ha commesso un reato? Ma ne commetto moltissimi, ma non è. Lei tirerebbe un sasso addosso a un poliziotto che difende il cantiere della TAV? Cioè io ho tirato anche sassi davanti alle camionette per esempio a Genova nel 2001. Vabbè, no, tentavano di investirci, certo, sulla TAB davanti al cantiere. Picchierebbe un poliziotto che difende il cantiere per assaltare il cantiere stesso? Ma il problema non è mai picchiare il poliziotto, il problema è bloccare le navi, il problema è impedire lo scempio di una montagna, non è il mio problema, non è mai la polizia. Ma ho capito, però per impedire questo scempio, lei è disposto anche ad affrontare, come dire, ad affrontare chi lo difende questo scempio, cioè la polizia, ad affrontare ma con la violenza? Ma ci mancherebbe altro, cioè? Senza ombra di dubbio. Cioè va affrontato, la questione si può risolvere anche con la violenza, dice lei. Ma cos'è la violenza? Io mica voglio fare violenza, voglio impedire la violenza, non farla. Ho capito, ma sabotare un cantiere significa anche in qualche modo distruggerlo, no? Non è mica violenza sabotare un cantiere. No, non è violenza sabotare un cantiere. No. Hanno trovato sente male una rete, sente male, soffre se la taglio. No, ma che c'entra? Non è che qualche volta c'è qualcuno davanti alla rete, però un poliziotto. Se c'è un poliziotto davanti alla rete, che facciamo? Qualche volta c'è anche qualcuno sotto un manganello della polizia. Cioè è giusto secondo lei, se c'è un poliziotto davanti a una rete, affrontare questo poliziotto, che ne so, con una spranga, con un oggetto contundente, tirare un sasso? Ma, signor Cacciari, me lo dica, perché lei deve essere coerente fino in fondo. Ma io credo che, non lo so, posso risponderle per me. Per esempio, quando il 9 giugno scorso siamo andati con un corteo davanti al porto e ci veniva impedito di procedere verso il porto per bloccare l'imbarco dei crocieristi, sì, in cosa, ho ritenuto assolutamente lecito, sì, e l'ho fatto, difenderci con scudi, con degli animaletti gonfiabili, con dei caschi, e siamo riusciti a ottenere l'ingresso al porto. Ma non è che vi difendevate voi, sono quei crocieristi che si devono difendere dalla vostra arroganza, dalla vostra protervia, dal vostro estremismo. Certi crocieristi devono difendersi dalla nostra arroganza, non una città che ma viene i crocieristi hanno pagato, due, hanno pagato che viene spaccata in due per profitti di alcune multinazionali, e a noi ci diroccano le case, ma che diroccano, ci inquinano l'aria, ma quando mai? Ma non è così sempre, questi qua hanno pagato e hanno diritto a circolare liberamente. Lei forse si ricorda quando era alle elementari, le facevano studiare un personaggio che si chiamava Archimede, quando una cosa in acqua si sposta, il volume che questa occupa sotto il livello del mare sposta una massa d'acqua. Quando noi parliamo di 140.000 tonnellate di stazza lorda, stiamo parlando di 130-140.000 metri cubi d'acqua che si spostano. E questo non è che lo dico io, lo dicono gli ingegneri navali, lo dice un signore che tanti anni fa si chiamava Archimede. La zanzara è quell'odioso insetto. Caterina, provincia di Monza, un attimo, Caterina, dica. Sì. Allora? Ciao, ascolta, no, buonasera, volevo soltanto dire quello a proposito della Boldrini, che veramente già mi stava sulle scatole prima e adesso diventa sempre peggio man mano che parla, anzi poi più parla, più andrà avanti, più sarà ancora peggio perché prenderà confidenza, per cui se magari adesso qualcosina si sta trattenendo, dopo secondo me ne vedremo delle belle. Comunque quello che si chiama lei, secondo me, si chiama, il nome giusto per lei è Shisha Merdina. Cioè? Shisha Merdina era il nome che noi davamo alla nostra Shisha collega. Shisha Merdina addirittura. Sì, sì, è carino. E sono quelle tutte pittimine che si credono chissà chi con la puzzetta sotto il naso, che si credono loro le più belle, che fanno tutto loro, eccetera. Ecco, lei è la presidente delle Shisha Merdine. Ho capito. Parenzo, non hai domande per il signor Cacciari che dice che si possa sabotare tranquillamente un cantiere della TAV? Vabbè, ma questo io lo capisco. Io ma che capisci? Capisci? No, che capisci? Uno dice si può sabotare un cantiere della TAV, roba da pazzi, ma dai, su. Conosco, una cosa contro la legge. Una cosa lo incredibile. Conosco da 20 anni con le battaglie con Luca. Lo zio ieri ha detto, lo zio ieri ha detto che basta discussioni. A un certo punto, scusa Tommaso, diamoci da tu. Allora, tuo zio ieri ha detto che cosa? Ha detto a un certo punto basta con queste discussioni infinite. L'Italia è il paese delle discussioni infinite. E sta deciso una cosa: basta discussioni, basta manifestazioni, basta rotture di coglioni. E dai, o no? Sarà un problema suo. Comunque sul dispetto alle grandi navi è stato deciso una cosa, c'è un decreto. No, parlavo della TAV, e io parlo delle grandi navi. Secondo questo suo ragionamento, no, non è comodo, perché vale per la TAV e non vale per le grandi navi? No, è stato deciso che sopra le 40.000 tonnellate non entrano più in bacino di San Marco, in Canale Giudecca. Perché non viene applicato? Io sto applicando la legge, io quando le blocco sto applicando il decreto Passera Clini. Devi fare salire i crocieristi, perché i crocieristi Come no? C'è un decreto che le vieta. Vabbè. C'è un decreto o non c'è? Ma non lo so, credo che sia una cosa contro la legge, dai, su. C'è un decreto che le vieta o non c'è? L'hanno fatto il decreto Clini Passera dopo la tragedia del Giglio o no? Questo decreto dice che dalle 40.000 tonnellate di stazza non devono più circolare. Tommaso, non entriamo nel tecnico, voglio capire una cosa. Ma è tutto tecnica. Tecnica. Va bene, ti abbraccio, a presto, ciao. Ciao. Franco, provincia di Cuneo. Ciao, Franco, veloce. Tempo fa che c'era quella mamma preoccupata per la figlia che non trova un compagno, marito. Allora? Mi ha fatto veramente scompisciare perché... effettivamente non penso che siamo tutti gay o cose varie, però il branco di froci e di transessuali si aggirano per l'Italia e impediscono alla ragazza di 28 anni, figlia dell'ascoltatrice, di avere un marito, di avere un fidanzato. Ciao, domani. Cioè, l'Italia è piena di coglioni, molti prefetti, molti magistrati, molti ministri, cioè è un mondo di pazzi.